delle Babilonia, Arabide, Cave, Cosh, Luonchi, Embriel, Sarranu, Maciel, Ecartel, Astrage, San Daniele, Lugonot, Cornutiel, Aitrate, Vaglione, Pocciorelle, Malasort, Ca, con tanta devozione, Culum, Fun, Chiovasang, e Sarrana, Mattanza, e Capuzel, a notte sangallistere creature bastardiel, miserere nobis, compagnelle senza niente, miserere carne, oreste tutta mercanzia, pietà, vestigio geniel, questa malattia, che sta facendo vierme, screnna sea, miserere studiembo, caccia un feta fantasia, giaci lo suono, non ce farò di pietà, e così sia, agnus dei refugatiel, revisce mana cuccotiel, agnus noi sfregge, te schiattamma carestia. Ci suono tiempo, su male tiempo, caccia strapazze, nierba passe, non so fermo mai a notte e non lo sento, son fizza sotto verma zitto e non muore mai, e scrollo tempo, non male tempo, l'aria trasa un corpo frascia d'antandra nea, capellana me fotto vento, non male tempo, la tempesta sabbia ardente e non si sente più la voce, ma solo ciato, la sussurranna sciosce contro la vienta, la presente sale, o sputa un cielo e torna a mocca, croce come un fiel. Poi nella sera un men, ritorna a suonchina, serrata in talatana, mute e sorda a chi si suona, ma un fuoco già si è state, coppe carfuna, sostese l'animella, rinde frone limone, o fumo tatta consuma, chi l'occhi è nira, esce dall'attore sti fragaglia, cotto cotto iova, essi per nostalgia, tiene fama d'amore, gli sto ca, ramono morza, sangue scorze, chi sto cuore, miserere nobis, un giardino a sentimento, miseresta freva, senza pentimento, pietà, questa serenata che non ci ha fatto intussica, perché sta bocca parsa agni di pietà. Sabbia ardente e non si sente più una